guardar le stelle che ascoltare il mare, ma qualcosa di più bello questa notte m'ha ispirato. Erano i tuoi occhi, la tua voce, amore. Luce alle stelle non guardai, cantava il mar, non ascoltai. Guardavo e udivo solo te, sospirar mio mio sei tu. Le stelle più non le contai, del mare più non ti parlai. Due stelle avevo innanzi a me e invocai, mio, mio sei tu. Tramontò e il mare al fin s'addormentò. Ci salutammo sol così, con languor mio mio sei tu. Mare guardare.